Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Nell'era del 2.0 o del 3.0 le persone hanno comunque un ruolo fondamentale. Oltre alla tecnologia sono davvero risorse o capitale umano o comunque si vogliono denominare la sostanza e che da loro dipende l'ingranaggio, il circolo virtuoso delle aziende, soprattutto di quelle piccole e medie. E qui un altro esempio di sostenibilità viene dalla capacità di gestirle, soprattutto perché i ritorni sono evidenti in termini di clima in azienda, che tutti viviamo per un'alta percentuale della nostra giornata fino all'80%, 90% a volte, e in termini di maggiore produttività ed efficienza con il sorriso e la consapevolezza della dignità del lavoro, anche di quello di imprenditore. GEA Sofitec, azienda di Treviso, si occupa di innovazione nel settore della gestione amministrativa del personale. I tool infatti hanno l'obiettivo di automatizzare le fasi, sincronizzare le informazioni del personale, velocizzare la comunicazione e portare miglioramento di processo all'interno delle aziende. Ma non si parla solo di elaborare paghe, come racconta Mauro Badalin, tra i fondatori e legale rappresentante di GEA Sofitec. Abbiamo realizzato un portale web per cui ogni dipendente dell'azienda può essere collegato e può accedere a una serie di informazioni sul proprio stato delle ferie, sul proprio cedolino, ma soprattutto poi queste informazioni sono state rese disponibili anche ai responsabili dell'azienda. E questo prima avveniva, ci siamo accorti che normalmente appunto la cosa avviene con richieste all'ufficio del personale in continuo o comunque con supporti di varia natura, fogli Excel che c'erano, che ci sono ancora, però non erano informazioni organizzate. Ecco, chi vi ha aiutato per realizzare questo salto di qualità, diciamo, dal punto di vista tecnologico, e ovviamente se ci sono state delle iniezioni di capitale, degli sviluppatori che avete assunto? Da questo punto di vista abbiamo fatto con le nostre forze. Nel senso che appunto l'esperienza che avevamo maturato nell'attuale società come GEA, quindi la parte diciamo di consulenza che offriamo e di elaborazione, ci ha permesso poi di mettere dei finanziamenti nella società. Sicuramente le esperienze che abbiamo avuto nel campo anche della privacy ci hanno aiutato a delimitare bene le varie attività, appunto, perché comunque tocchiamo dei dati che sono anche sensibili e quindi retribuzioni, perché tocchiamo appunto dati di varia natura ovviamente. Qual è il vostro modello di business? Da che cosa guadagnate? Ovviamente voi vendete questo prodotto, ma vogliamo anche capire in poco tempo così come siete riusciti a far conoscere il vostro prodotto e anche a creare una rete vendite, a crescere diciamo da impresa appena nata a impresa consolidata. Ultimamente in particolare stiamo puntando su internet, quindi diciamo su Google, sui social network. Abbiamo assunto personale che aveva un'esperienza in questo e ci siamo poi affiancati anche a una società, ci stiamo facendo affiancare a una società che ci sviluppa appunto tutta la parte marketing, proprio perché vediamo che quello può essere il canale interessante. Qual è l'età media di quelli che avete assunto per questa idea anticrisi? Io sono il più vecchio in azienda e l'età media invece, diciamo se mi escludo, l'età media appunto dei collaboratori è intorno ai 26 anni. E sono già tutti competenti? Le stiamo facendo crescere, però appunto abbiamo trovato anche le persone che sono state disposte ad imparare velocemente, a mettersi in gioco e ad essere diciamo un lavoratore dei 2014, dei nostri anni, non un lavoratore vecchio stampo insomma. E mentre lei invece li aiuta con la sua lunga esperienza? Sì, assolutamente sì, insomma, penso di poter fare qualcosa sotto quel profilo, perché magari sulla parte tecnologica mi danno assolutamente tanti punti. TechnoWrap produce e vende impianti avvolgitori e lavora per aziende internazionali e multinazionali di grande calibro, tecnologia, flessibilità e creatività. Questi gli ingredienti che hanno dato vita a un successo imprenditoriale. La TechnoWrap di Fonzaso in provincia di Belluno hanno realizzato un cambiamento in azienda da poco, una sfida che ha richiesto flessibilità prima di tutto alle persone e anche nell'applicazione di una dottrina che può venire con le dovute personalizzazioni replicata in diversi tipi di PMI italiane, perché ci sono grandi appassionati ed esperti esperti di meccanica in azienda, ma soprattutto persone con grande capacità di adeguarsi. Per produrre in grande scala, infatti, non è necessario che le persone diventino ingranaggi, come spiega l'ingegner Davide Ceccarelli, fondatore e amministratore di TechnoWrap. L'idea è credere nella flessibilità, nella creatività, che riteniamo speciali nel popolo italiano, nelle persone che qua vivono, perché probabilmente noi nasciamo in un paese che, diciamo, che ci stimola ad essere elastici, pazienti e creativi, e secondo noi nessuno ci può battere in questi campi. Quindi la creatività italiana è la vostra vera idea anticrisi, perché insomma è l'idea anticrisi del nostro paese. Ma in particolare TechnoWrap che cosa ha ideato per fare un salto di qualità? Abbiamo analizzato i nostri concorrenti, che già conoscevamo prima di cominciare, e abbiamo creduto fosse possibile fare macchine migliori di quelle che il mercato proponeva. Quindi abbiamo pensato a come diversificare e oggi proponiamo ai nostri clienti qualcosa che i nostri concorrenti non hanno. Allora, intanto noi facciamo macchine per l'industria, nel nostro caso sono macchine che avvolgono i carichi palettizzati. La merce viaggia su pallet, possono essere cartoni, sacchi, bottiglie o barattoli, ogni tipo di merce che viaggia su pallet. Noi facciamo la macchina che mette la pellicola attorno a questo pallet, attorno alla merce, per far sì che non si scomponga durante il trasporto. In questo settore abbiamo creato la macchina a braccio rotante, cioè è un braccio che ruota attorno al prodotto per avvolgerlo, più veloce del mondo. Oggi siamo in grado con dei nostri brevetti di dire ai nostri clienti: nessuno è veloce come la nostra macchina. Oltre a questa idea c'è anche un altro aspetto molto importante: il consumo di film sulle nostre macchine è bassissimo. Noi garantiamo ai nostri clienti di poter avvolgere il loro pallet di altezza un metro, che è il pallet standard, con soli 96 grammi di film. Un grande vantaggio per l'ambiente e soprattutto per il portafoglio dei nostri clienti. Chi vi ha aiutato allora? Ci siamo aiutati da soli, direi che il clima che abbiamo creato all'interno dell'azienda fa sì che i nostri ragazzi sfruttino ed espongano la loro creatività e le loro idee senza paura. Io stimolo tutte le persone qua dentro non solo a raccontare quali sono le loro idee, ma soprattutto a me piacciono, i loro no. Io voglio sentire persone qua dentro che dicono: non sono d'accordo, farei diversamente, avrei una proposta alternativa, e quindi si sono abituati tutti a parlare senza avere davanti qualcuno che dica loro: adesso taci, ora basta. Questo ha creato un clima all'interno dell'azienda di persone capaci di creare, di proporre, e allora le idee nascono, le macchine nascono, diventiamo competitivi perché riusciamo a proporre idee nuove sul mercato. Che numeri ci può dare, ci può fornire di come vi ha aiutato puntare molto sull'organizzazione aziendale, quanto vi ha aiutato a crescere? Ci ha aiutato a crescere perché la maggiore efficienza ci permette di essere più competitivi. Noi l'anno scorso abbiamo aumentato il nostro fatturato del 38%, e questo grazie a macchine che funzionano e anche a prezzi aggressivi su mercati in cui ci sono altre aziende, magari che producono dove la manodopera costa meno, che non riescono oggi a competere con i nostri prezzi, nonostante siano in paesi diversi dal nostro, magari dove è più facile ottenere manodopera a basso prezzo. Ecco, quest'anno avete delle previsioni, perché siamo in un momento di crisi. Quali sono i suggerimenti e, diciamo, quali sono da azienda tradizionale che sa innovarsi, quali sono i suggerimenti che potete dare? I suggerimenti è guardare con grande attenzione il proprio prodotto, ascoltare i clienti, proporlo nel migliore dei modi attraverso il marketing, essere efficienti per poter avere un prezzo competitivo, ma soprattutto, continuo a dire, in Italia abbiamo dei ragazzi fantastici dal punto di vista delle capacità, della flessibilità e anche della voglia di lavorare, e dobbiamo sfruttare questo. Sono bravissimi, basta dargli fiducia, bisogna lasciarli parlare. Io addirittura ogni anno chiedo loro almeno 5 cose a ognuno di loro, sia chiaro, non ai responsabili, ma ognuno di loro mi compila un foglio in cui scrive almeno 5 cose che nella nostra azienda non funzionano. Loro sanno che di ogni cosa che scrivono facciamo un tavolo, ne parliamo e la risolviamo. Se i ragazzi credono nell'azienda, danno il 100% di loro stessi. E ora, nel lavoro e nelle idee imprenditoriali, sentitevi prima di tutto persone. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @VociPMIRadio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa. Il blog e il download sono su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.